100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Siamo reduci da quello che passerà alla storia come il venerdì nero della Brexit. La Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea ed è stato un vero shock per le borse internazionali. Una sorpresa tanto più amara se si considera che i mercati azionari erano reduci da 5 sedute consecutive di rialzo, avendo scommesso con decisione su una vittoria del Remain. Le più penalizzate, le piazze periferiche, Spagna, Grecia, Italia, che ha perso il 12,5%, la sua peggior seduta di sempre. Borse che hanno subito perdite che non si vedevano dal periodo della bancarotta di Lehman Brothers. Dall'Asia all'Europa, a Wall Street i ribassi non hanno risparmiato nessuno e ci si attende altrettanto nervosismo da oggi alle prossime sedute, almeno in attesa che arrivi uno scenario più chiaro su come verrà pilotata questa uscita del Regno Unito dalla cornice europea per limitare i danni economici e finanziari. E proprio oggi parte una maratona diplomatica da Bruxelles per affrontare la situazione con il vertice fra Matteo Renzi, Angela Merkel e François Hollande. Le reazioni più violente venerdì si sono viste sul mercato valutario, con la sterlina che è precipitata ai minimi da 30 anni sul dollaro e sui titoli bancari. Meno intensa la reazione manifestata dal mercato obbligazionario. Lo spread fra BTP e Bund si è allargato fino a 190 punti base, per poi restringersi intorno ai 150. Per gli operatori questa tenuta dei bond governativi è stata garantita dalla rete di protezione già esistente da parte della Banca Centrale Europea, che comunque è tornata a promettere: siamo pronti a fornire tutta la liquidità necessaria per stabilizzare il sistema. L'oro si è invece stabilizzato a intorno ai 1330 dollari l'oncia, livelli che rappresentano il top da 2 anni. Per le storie di Piazza Affari, come era logico attendersi, nel vortice sono finite le banche. Le big del credito hanno subito perdite fra il 5 e il 20% e già si ipotizza un piano del governo per un eventuale intervento fra le situazioni più critiche, mentre, come nelle attese, è fallito l'aumento di capitale di Veneto Banca, che a questo punto non si quota in borsa. A cosa guardare alla settimana che si apre oggi? È difficile dirlo. I contraccolpi dell'esito referendario britannico si faranno ancora sentire, si presume ancora per qualche tempo. Intanto oggi abbiamo anche la reazione al risultato elettorale spagnolo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Lo scenario peggiore, cioè mercati finanziari ancora in fermento per l'effetto Brexit, è quello che continua a concretizzarsi. Anche oggi i mercati finanziari, le borse, le valute, i titoli di Stato sono stati travolti dall'incertezza e dalle vendite. Segno evidente che la fiducia nei confronti della classe politica europea, cioè nel trovare una soluzione ai problemi posti da Brexit, è ancora lontana. Ma qualche novità c'è. Tanto a Bruxelles quanto a Roma si sono cominciati a porre il problema di trovare una soluzione più drastica e decisiva al terremoto che ha colpito gli istituti di credito e la borsa italiana. L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di permettere una deroga proprio all'Italia sulla questione degli aiuti di Stato, permettere cioè al nostro governo di entrare, come è stato fatto del resto già negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Francia negli anni scorsi, di entrare nel capitale delle banche con iniezioni di risorse fresche. L'ipotesi parla addirittura di 44 miliardi di euro che potrebbero essere investiti dallo Stato dentro le banche per puntellarne la capitalizzazione, soprattutto per dare agli investitori e ai correntisti la certezza che le istituzioni sono accanto agli istituti di credito in questo momento difficile. Certo, la partita è molto critica, l'Europa non era più orientata ormai da tempo a concedere agli Stati la possibilità di entrare e salvare le banche, il bail-in ormai è noto a tutti, ma indubbiamente in tempi di emergenza servono soluzioni drastiche e soprattutto, vista la lezione che ha dato Brexit a tutta l'Europa, è inutile continuare a mantenere la linea dura quando il bisogno della popolazione, dei risparmiatori e degli investitori è quello di avere certezze non solo sui conti pubblici ma soprattutto sui conti che la politica sta facendo sull'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.